Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Si avvicinavano agli ignari automobilisti anziani simulando un incidente accusandoli falsamente di aver provocato con la loro condotta di guida la rottura dello specchietto laterale sinistro dell'auto. Così operavano alcuni soggetti della zona di Pordenone. La truffa si consumava poi con la richiesta di un immediato risarcimento. A scoprirla però è stato un poliziotto in pensione di 85 anni che 3 giorni fa aveva subito con le medesime modalità un tentativo di truffa. L'uomo è riuscito prima di tutto a allontanarsi rapidamente senza aderire alle richieste del truffatore e quindi a denunciare il caso ai carabinieri. I militari hanno rintracciato nel quartiere Torre l'autore della condotta incriminata che alla guida della propria Alfa Romeo 147 grigia stava probabilmente cercando altre potenziali vittime. È doveroso ogni tanto rifare il punto sulle truffe, non perché siano attività prettamente propria del mondo moderno. Boccaccio ci parla di truffe al tempo della grande peste di Firenze. Il mio conterraneo Andreuccio da Perugia fu vittima di un'enorme truffa. Anche lì fu abbindolato da qualcuno che giocava sulla sua debolezza di sentimenti e di palpiti carnali, facendolo finire dentro una grande latrina. Oggi le truffe si vanno specializzando, abbracciano altri campi, si muovono su due piani paralleli. L'uno è quello basato sulla estrema solitudine dell'essere umano, iperconnesso e multitask, e si colpiscono le categorie che più magari hanno bisogno di sentire o avere l'illusione o immaginare che qualcuno si occupi di loro. E queste sono le prime vittime di truffe, diciamo delle truffe di tipo relazionale, persone che millantano parentele, millantano rapporti con figli, con nipoti, con parenti ormai che hanno dimenticato il soggetto chiave della truffa. Altre truffe parimenti colpiscono i giovanissimi, che sono continuamente in rete e hanno anche loro comunque delle distorsioni relazionali, quindi vengono truffati sul piano del loro muoversi quotidiano. Altre truffe poi riguardano il fatto che circoli voce che ci siano truffe. Ce n'è una in particolare di cui parleremo fra qualche istante, che è stata molto strombazzata, addirittura qualcuno si è pensato di comprare dei portafogli a isolamento magnetico perché girava la voce, malintenzionati vadano in giro con i POS per gli autobus a succhiare soldi dalle carte di credito degli ignari passeggeri. Vedremo poi cosa c'è di vero questa truffa, è inutile che vi compriate le mutande piombate, potrebbero esservi utili ma non certo per salvare i soldi che avete depositato nel vostro conto a cui si accede con una carta di credito. Avete altre truffe? Avete subito truffe? Avete voi delle singolari e ancora inedite forme di truffare, essere truffati che ancora non sono entrate nella gloria delle cronache? Beh, questa è la mattina per parlarne, a tra poco. 800 24 00 24. Melog. Cronache meridiane. La truffa del resto. In questo filmato vedete in questo momento una mano porgere una banconota da 100 euro vicino al registratore di cassa sul lato destro. Il barista prepara lo scontrino fiscale e consegna lo scontrino fiscale, contestualmente ritira la banconota da 100 euro. La tiene in mano, comincia a dare il resto, un taglio da 5 euro più 1 euro in moneta e a seguire due banconote da 20 euro. Adesso consegna 50 euro. Ecco, in questo momento avete visto l'operazione. Le 50 euro sono sparite. Ha fatto sparire i 50 euro mettendoseli in tasca. Rimane sul bancone di fianco alla cassa il iniziale resto di 46 euro. E l'uomo con la mano destra chiede al barista e attende dal barista il resto. Il barista, un po' confuso, assillato dalle domande del truffatore, gliele riconsegna e il truffatore se ne va con 50 euro in più in tasca. Questa è una truffa, diciamo, del settore analogico. Esistono però le truffe tecnologiche. Iniziamo subito, come abbiamo annunciato, nel capire cosa c'è di vero rispetto a un allarme di truffa su molti giornali uscita la storia della truffa del bancomat col contactless. Sono i truffatori che girerebbero negli autobus, nelle metropolitane, nei treni con il POS in mano, di quelli che non occorre mettere il PIN, che per semplice contatto puoi prendere dei pagamenti fino a 25 euro, e 25 euro per 25 euro andrebbero borseggiati conteggiare elettronicamente i portafogli degli ignari passeggeri, tanto che qualcuno probabilmente si sta già immettendo nel commercio dei portafogli isolanti, blindati, non so bene come sono fatti, piombati, per difendersi da questo tipo di truffa. Valeria Portale, buongiorno. Buongiorno. È direttore dell'Osservatorio Mobile Payment E-Commerce del Politecnico di Milano. È vera questa truffa? È possibile? È attuabile? Allora, ovviamente sappiamo che con le nuove tecnologie anche i truffatori stanno diventando sempre più ingegnosi e trovando sempre le migliori soluzioni. Sono gli unici che studiano nel nostro paese. Per affrontare le nuove tecnologie. Tuttavia, ecco, bisogna un po' sfatare alcuni falsi miti. Bisogna in primis considerare che la tecnologia contactless permette, certo, un pagamento senza contatto, ma è più a parole che nei fatti. Chi ha già testato questa tecnologia sa benissimo che la carta deve quasi toccare, cioè devi sostanzialmente toccare il POS per poter effettuare la transazione, quindi dobbiamo pensare che deve essere un contatto davvero ravvicinato. Cioè uno dovrebbe avere la carta in un taschino di una camicia e quello appoggiarci sopra il POS per poterlo fare, ecco. Esatto, esattamente, quindi è un elemento importante, quindi il raggio d'azione non è così elevato, soprattutto perché la carta lavora in modalità passiva e il POS lavora in modalità attiva, quindi questa tipologia di comunicazione richiede un raggio d'azione molto limitato. Un altro elemento importante da tenere in considerazione è che poi nel portafoglio molto spesso abbiamo più carte, ok? Anche con la medesima tecnologia, ad esempio l'abbonamento della metropolitana di Milano ha la stessa tecnologia, quindi un POS a fronte di più carte con la medesima tecnologia non riuscirebbe di certo a registrare nessuna transazione. C'è un altro motivo, poi scusi, ogni transazione viene fatta sulla mia carta di credito, a me mi arriva un SMS. A me arriverebbe un SMS nella metropolitana, dicono t'hanno preso 25 euro e non me lo spiegherei. E poi è tracciabile chi me li ha presi. Mi sembra difficile come cosa. Esatto. L'elemento importante è che il POS è uno strumento che è allacciato ad un circuito che identifica, censisce e autorizza ad operare, quindi una banca, quei soldi finirebbero su un conto, ok, e che è immesso in un circuito online, quindi certamente uno ci potrebbe provare, ma probabilmente nel giro di poco verrebbe rintracciato, perché io utente che possiedo la carta so che ho transato a quel determinato POS che è allacciato ad un determinato conto e quindi la mia banca saprebbe rintracciare il POS che mi ha rubato i soldi. Lo sa perché l'ho fatto questa domanda? Perché ho davanti due quotidiani, di cui taccio la testata per misericordia, che hanno preso per buona una voce girata su Facebook, che è il luogo delle bufale più bufalesche che possano esistere. I titoli erano Bancomat Contactless, ecco come ti fregano i soldi sul treno. C'è la foto di uno che passa con il POS nella metro. Ultima truffa del bancomat col contactless. In realtà non esiste questa cosa, mi sembra aver capito che è una cosa molto molto molto molto molto difficile e circoscrivibile il pericolo. Ripeto, vediamo se Valeria Portale mi conferma. Dovreste per paradosso avere la carta di credito unica a stretto contatto con il POS del malfattore, lui strusciarcela sopra, ma in ogni caso sarebbe tracciato immediatamente che aveva preso questi soldi, quindi questo mi sembra difficile. Sentiamo un attimo Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno, sì. Sono Claudio. No, volevo solo fare una precisazione che io sono caduto purtroppo in una truffa che pensi, quando leggi sui giornali, dici guarda questi qui dove sono caduti, e invece dopo capita anche a te. Me ne rendo conto, ancora le toglie il fiato questa esperienza. Sì, no, perché ho fatto una corsa per rispondere. Scusi. Ah, no, pensavo che era l'emozione. Quanto le hanno solato e come hanno fatto? Ma circa sui 100.000 euro, vabbè, non è proprio una immobiliare classica. Io purtroppo ero stato anche incoraggiato da delle persone, amici, competenti, direttori di banca e anche titolari di azienda a loro volta truffati, ma la cosa che mi premeva di sottolineare è che queste ma come avviene questo tipo di truffa? Non mi spieghi, ha comprato una casa che non esisteva, non era il proprietario che gliel'ha venduta? Ma in questo caso era articolata molto bene, perché facevano riferimento L'ammontare complessivo della truffa è circa, mi pare, dai 9 ai 12 milioni di euro, vabbè. Sono cadute diverse persone, facevano riferimento a delle case che andavano all'asta nel Tribunale di Roma, e per non erano case che non venivano definito l'acquisto dai proprietari, perché i proprietari erano dei proprietari famosi. Non volevano vedere che si vendano la casa, sì. E allora restava tutto un po' insabbiato. Sembrava un grande affare, naturalmente sembrava un grande affare. Sì, sicuramente da parte mia c'era il miraggio del grande affare, cosa che sottolineo e voglio dire a tutti gli ascoltatori, difficilmente esiste. Cioè nessuno regala niente, questo dovrebbe essere un principio, nessuno ti regala mai niente, mai. Bravissimo. Ma una cosa viene a pensare però, quando uno compra o vende una casa, comunque c'è un iter abbastanza rigoroso, uno va dal notaio, fa un rogito, il notaio prende le informazioni, questi passaggi sono stati saltati? No, allora questi passaggi nel preliminare loro chiedevano un acconto, in più facevano nomi di giudici legati al Tribunale di Roma, cose che sono state verificate, era stata fatta molto articolata, molto bene. Però lei ha saltato alcuni dei passaggi prudenziali che si fanno quando si compra una casa, evidentemente. Ma diciamo di primo acchito no, perché era solo una fase di acconto. Ma quando non tirano fuori i soldi si fa da un notaio di solito, non è che si danno in mano così. Assolutamente sì. E il notaio poi ne risponde, sta lì apposta. No, le dico in verità, facendo autocritica, è stata anche una cosa che non andava molto bene, molto dichiarata. Si poteva scavalcare sì. Delle liste preferenziali. Diciamo che l'allettamento, che c'è sempre un po' di nero possibile, è un po' di, diciamo, è una e uno sulla rimane fregato. Purtroppo, lo dico sinceramente, ma non sono poi un moralista, è meglio seguire l'iter regolare, almeno uno sta tranquillo, sa quello che spende e sa quello che prende. Sì, oggi non c'è più spazio per le furbate, a meno che uno non faccia parte della banda della Magliana, ma quello è un altro discorso. Non mi sembra che lei abbia questo tipo di assuefazione, è inutile. Le mezze vie non sono più percorribili, le furbate non possono più esistere, e laddove uno pensa c'è un grande affare c'è sempre dietro una truffa. Ben, buongiorno. Buongiorno, sì. Buongiorno. Senta, io sono contento che lei tratti questo argomento, perché negli ultimi mesi, 5-6 mesi, 4 volte ci hanno provato con me. A fare cosa? Io sono di Roma, muro torto, a farmi pagare lo specchietto rotto. Ah, la famosa truffa dello specchietto, sì, ma ormai è vecchia. Allora sì, il muro torto, così, non li dico. Alla fine, la prima volta sono rimasto un po' così, perché è una cosa classica, senti un rumore, tipo come una biglia di vetro. È una pallina di pongo che tirano. Sì, qualcosa così. Cioè, ormai, del genere. Hanno fatto allora, decine di volte. Sono rimasto, ho detto, oh Dio, l'ho toccato così. Sì. E allora dopo un po' mi sono ripreso, non ho dato niente. Quando ho sentito la seconda, terza volta, allora ho detto, questa volta lo faccio vedere io. Siccome ho i capelli bianchi, magari ci provano, ci piano. Sì, anche a me, c'ho l'area da Umarell, da vecchietto, quindi si pensa di approfittarsi. Però sono non sanno che ho un blocca sterzo molto voluminoso vicino al sedile. Siccome sono robusto, quando scendo fa un po'. Allora gli dico, guardi, non ci sono problemi, facciamo il CID, io ho l'assicurazione casco. Ma no, lasci perdere, che saranno 50, 150, certo. Alla fine mi dia 50. Dico, non do niente, io neanche un euro, mi faccia il CID. No, alla fine quando dicono, questo l'ho fatto la seconda volta e per 3 volte l'ho fatto, dice no, mi dia 50, allora lasciamo perdere. Gli dico io, aspetti, non lascio perdere per niente, adesso prendo la targa e la denuncio. Sì, ma scappano via. Allora, dico la variante, anche perché io ne ho parlato decine di volte in trasmissione, poi stavo per cascarci. La variante del trucco dello specchietto rotto, che vogliono 50 euro, è il ragazzino con la faccia pulita, che ti corre dietro, dice, guarda, per poco mi ammazzavi, mi hai colpito col motorino. Dici, ma quando? Ci fai vedere il motorino, c'è un pezzo di plastica rotto. E ti si avvicina la macchina, guarda che c'è il segno. E tu vedi una strisciata nera sulla tua macchina. E cominci a pensare che possa essere vero. Ma poi devi razionalizzare, quella strisciata la fa lui mentre te la indica con un pezzo di plastilina che spalmi. Io ce l'ho ancora sulla mia macchina. Il motorino era già rotto da prima, c'è la faccetta da bravo ragazzo, dici, poverino, così anche lui c'ha tanta fretta di tornare a casa, con 150 euro risolvi il problema. Basta dire, benissimo, chiamiamo i vigili. E lui si dissolve come neve al sole. Renato, buongiorno. Sì, buongiorno. Io telefonavo per dare il mio contributo su questa materia. Sì. Io ho studiato... Chiuda la radio gentilmente però, perché c'è un eco. Ho studiato documenti elettronici per motivi di lavoro e sono a conoscenza della tecnologia Contact Telex, sì, che è una tecnologia abbastanza recente, però i giornali non sbagliano quando dicono che... Lei dice che è possibile, lei dice che è possibile. Sì, sì, è possibile, perché i livelli di sicurezza che vengono adottati, ad esempio, sui documenti, prevedono che prima di esserci la lettura tramite chip contactless ci deve, sono, devono essere dei processi di apertura dei chip. E questo non avviene in queste carte, per cui un rischio molto molto molto molto molto distante, però esiste, cioè vuol dire non è stato previsto, insomma, questo, sì, ma risponde a verità il fatto che se non c'è la struscia sopra non la legge la carta. No, diciamo che queste ci sono delle app per i telefonini che aprono queste cose, per cui voglio dire un telefonino riesce ad aprirlo, con un telefonino bisognerebbe forzare la sicurezza, sì, della carta. Sì. Questo è possibile. Beh, è una sorta di intrusione. Cioè, con un'app io posso prima aprire la carta e poi prendere... L'apertura dei chip contactless, come possono essere anche dei documenti, può avvenire tramite un'app che circola liberamente sui nostri telefonini. Per cui, insomma, questo rischio... Non è così. Ma una volta aperta l'app, sì, comunque bisogna sempre passarci sopra il POS oppure no? Questo non glielo so, cioè questo tecnicamente non lo so. È una cosa fondamentale. Fatto, a me può aprire anche tutte le app del mio portafoglio. No, cioè quando apri il concetto cos'è? La sicurezza è l'apertura del chip. Quello è il problema di chi gestisce le carte. Si fa dei chip non sicuri. Sì, ovvio, però nel momento in cui io ho un dato che devo comunque tutelare, che possono essere dati sensibili, dati personali o dati di una carta di credito. Sì, mi pone un altro problema. Mi dice i chip delle carte di credito hanno, diciamo, dei bug che con un'applicazione possono aprire. Prendo atto di questa informazione, poi verificheremo. Qua noi parliamo di un'altra cosa. Parliamo di un sistema molto più apparentemente rozzo. Uno che gira col POS, lo struscia sulle chiappe delle persone e si prende i soldi. Che mi sembra che ancora comunque sia, proprio se non sta a contatto con la carta, mi sembra molto difficile. Fermiamoci un istante, però diamo la linea alla borsa, poi continuiamo. Melog, cronache meridiane. Se Totò proponeva ad un ignaro turista l'acquisto della Fontana di Trevi, perché non proporre la vendita di appartamenti non di proprietà? Da questa intuizione molto probabilmente 6 soggetti di nazionalità italiana hanno preso spunto per una truffa combinata studiata nei minimi dettagli. Dopo aver proposto infatti appartamenti non loro ad ignari clienti, incassavano i soldi della caparra o in alcuni casi l'intero importo e poi sparivano. Un sodalizio criminale scoperto dai carabinieri di Roma tra il Lazio e la Campania e l'Emilia Romagna. Gli indagati, operando principalmente nel quartiere Parioli a Roma, stipulavano con identità fittizie e documenti contraffatti contratti di affitto con i legittimi proprietari di alcune abitazioni. Una volta in possesso di 0024, parliamo di truffe. Però vedete che dietro ogni truffa, quelle in cui uno si infila volontariamente, non quelle che ti infilano una mano nelle tasche, quelle sono difficili da eludere, c'è sempre l'idea nascosta di fare una furbata, di fare un grande affare, di fregare qualcuno, di seguire una via preferenziale. Tutte le volte che viene offerto il grande affare, possa essere il mattone che ti vendono all'autogrill dell'autostrada e tu pensi comunque di comprare qualche cosa rubato che quindi costa poco, in realtà dentro c'è un mattone, sia il telefonino rubato. Una volta venne un mio collega, mi ricordo piangendo, gli hanno regalato una sorta di scatola vuota piena di cemento, pensava non so come, lui dice guarda mi hanno messo in mano uno smartphone bellissimo, il momento che me l'hanno messo in tasca io mi sono trovato in tasca questo blocco di cemento. Beh, è proprio così, sono bravi, sono svegli, ma giocano sul fatto che noi pensiamo sempre di essere più furbi degli altri. Ubaldo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. A lei come l'hanno truffato? Ma io, a me non è successo nulla come persona, è successo ad altri cittadini padovani e veneti e anche da altre regioni d'Italia, che i quali hanno ricevuto una ingiunzione di pagamento per una multa per divieto di sosta dalla Croazia. Abbiamo accertato anche in trasmissione di mandare i tre che non si tratta di una truffa, ma bensì di, come dicono i croati, di un errore di trascrizione delle targhe. Allora spiego un attimo, a parlare è Roberto Nardo, che è il presidente di Consum di Padova e Rovigo, e parla su una truffa di cui si è molto scritto e molto letto, le famose multe che verrebbero dalla Croazia. Spieghi innanzitutto come si identifica il fatto, come vi è stato segnalato. Ci è stato segnalato quando le persone oggetto di questa particolare attenzione hanno chiesto l'appuntamento in associazione. Cioè sono arrivate delle multe, ma su queste multe cosa c'era scritto? Più che arrivare le multe, sono arrivati addirittura i decreti di ingiunzione al pagamento di somme che si aggiravano attorno ai 500 euro più euro meno. Le multe erano riferite a soste non pagate presso i parcheggi pubblici della città di Fiume, Pola e Spalato, cioè le città. Ma se non erano andati in Croazia, loro c'erano andati? Loro non sono mai stati in Croazia e non ci sono mai stati, soprattutto con quell'auto che è stata oggetto. E allora basta sanzione. Non pagare, se uno non c'è stato, no? Il problema è che l'ingiunzione è emessa dallo Stato croato attraverso i notai, perché sono i notai in Croazia che fanno i decreti aggiuntivi, al contrario di quello che succede in Italia. Non pagate, poi danno seguito alle operazioni di recupero coatto e nel momento in cui io, ignaro cittadino... Cioè può venire un croato, un ufficiale giudiziario croato a portarmi via al lampadario da casa? Ma lo faranno attraverso la rogatoria probabilmente. Ma le rogatorie non funzionano manco per gli assassini, funzionano per le multe. È proprio questo, non funziona per gli assassini, però funziona per... nei confronti di Pantalone, proprio per il cittadino più debole. Ma cosa c'è di vero in tutto questo? C'è di truffa? E chi, soprattutto chi riceve questa multa croata, che deve fare? Non deve pagarla, innanzitutto, anche perché è una somma eccessivamente onerosa, perché la multa originaria per mancato pagamento della sosta era di 80 cune, cioè 10 euro poco più, poco meno. E tra spese di giudizio, spese notarili, spese di notifica e altro, sono lievitati fino a 500. Sì, ma chi c'è dietro? Ci sono veramente dietro i notai oppure è tutta un'operazione truffaldina? I documenti sembrano essere sottoscritti, questo l'ha confermato anche il console italiano di Fiume. Quindi c'è la complicità di professionisti? Ci sono dei professionisti in mezzo di complicità. Non è che meraviglia di questo, siamo un paese in cui hanno arrestato ministri, quindi figuriamoci se mi pongo il problema ci possono essere dei notai croati che consapevolmente fanno le truffe. Però sarebbe da chiarire questa cosa, perché è abbastanza interessante. L'abbiamo chiarita perché abbiamo predisposto il ricorso e che comunque abbiamo contestato, perché costringere il cittadino italiano totalmente innocente di quanto su quanto affermato dal notaio è un'ulteriore vessatorietà rispetto alla sorpresa di vedersi chiedere 500 euro alla Croazia. Io vedo una lettera di replica di un certo notaio, dottor Ivan Cucuzza. Quel notaio là è proprio Ivan Cucuzza. È Ivan Cucuzza, diciamo. Beh, l'ho detto all'italiana. Sì. E quindi, cosa ha detto? Cucuzza cosa ha detto? Che ha firmato, ha detto che trattasi di un errore di trascrizione da parte degli addetti alla vigilanza delle targhe. Ah. Ma, mi sembra un po' strano, però. Io dico, è comprensibile, magari un errore, due, tre. E ma quindi, non, quindi Cucuzza si è nascosto dietro un dito praticamente. Non migliaia di questioni di questo tipo qua. O le cose sono due, o i croati sono totalmente analfabeti che non sanno leggere le tasche. No, sono, diciamo, oppure, questo. Oppure qualcuno ci. Mi sembra che il notaio Cucuzza, però, in questo, il fatto che dica è un errore di trascrizione, quasi ammette il fatto che in qualche maniera lui ne è consapevole, che è strana questa cosa qua, perché un errore di trascrizione con migliaia di persone a cui viene fatta chiaramente una truffa, non puoi dire un errore. Se dice un errore, in qualche maniera ne sei dentro, ne sei consapevole. Vorrei su questo un maggiore livello di chiarimento. Roberto Nardo ha parlato. Ubaldo, ecco, prendiamo Ubaldo. Ubaldo. Pronto? Sì, Ubaldo. Pronto? Buongiorno. Intanto grazie di aver trattato questo argomento in trasmissione. Ma cos'ha il viva voce lei? Il viva voce, Ubaldo? La sento un po' lontano. Purtroppo sì, perché sono in macchina, in autostrada. Sì. Quindi sta giocandosi la vita. Allora, parli, sentiamo. Allora, la voglio raccontare velocemente. A me è capitato, mi sono confrontato anche con amici e parenti, di un fantomatico signore che passa nei condomini e dice di voler riscuotere le quote condominiali di arretrati relativi o a lavori di scaldamento. A finti dipendenti ormai dell'amministratore di condominio che vanno a riscuotere i condomini. Sentire che di solito capita che. Lo so, è stato fatale questo viva voce, speriamo che non sia addebitabile comunque a qualche sinistro. Ubaldo è caduto, è tracollato miseramente, però Ubaldo ci dice qualcosa che potrebbe aguzzare il vostro ingegno. Girano in alcune parti d'Italia, approfittandosi sempre magari delle persone più anziane, di quelle più sprovvedute, sono gli stessi poi vanno a proporre grandi affari per bollette telefoniche, utenze del gas e via dicendo, che stranamente da quando una volta ho chiamato la polizia nel mio condominio non vengono più, evidentemente si è sparsa la voce. Io una volta, alla fine, stanco di avere queste persone con il finto cartellino, finto, vero, supposto e via dicendo, che sentivo le voci delle signore anziane, dicendo ma no, non mi serve, ma no signora, mi dia una bolletta. Ho chiamato la polizia, che è venuta in 5 minuti, loro sono scappati di corsa, da quel momento nel mio palazzo non vengono più. Ve lo do come consiglio, evidentemente se lo segnano sulla porta, qui non ci andate. Ecco, per la stessa ragione girano personaggi dicendo siamo dipendenti dell'amministratore di condominio, ci sono degli arretrati, magari una persona in buona fede tira fuori i soldini dal calzino o dal barattolo dello zucchero e paga e non dovrebbe pagare. Ci fermiamo tra un istante. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, stiamo addentrandoci nei meandri delle nuove truffe. Qualcuno mi dice che esiste una truffa, è vero, me l'hanno riferito varie persone. Uno cerca in rete una casa per le vacanze o per un weekend, per un viaggio all'estero, trova una grande occasione, quelle lì last minute, immediatamente cerca di prenderla, la paga e si rende conto che in realtà quando va lì poi ha pagato semplicemente una carta di credito ricaricabile all'estero su un conto estero irrintracciabile, quindi tutti i soldi d'anticipo sono stati buttati dalla finestra. Attenzione. Fabio Menicacci, buongiorno. Buongiorno. Fabio Menicacci, segretario nazionale ANAP Pensionati Confartigianato, organizza incontri antitruffa per anziani. Come vanno i suoi corsi di aggiornamento per anziani? Vanno bene, è il secondo anno che le facciamo in accordo con la Polizia Criminale, comandi di Carabinieri, Finanza e Polizia. Diciamo quali sono gli aggiornamenti, quali sono le cose nuove di cui fate argomento di lezione? Ma noi, diciamo quotidianamente, perché in tutto il territorio nazionale, le nostre sedi, compresa la nostra, quella nazionale, incontra anziani e cerca di spiegare come non cadere nei tranelli delle truffe, che ogni giorno sono nuovi, lo dimostra la sua trasmissione. Però vediamo che gli anziani rispondono molto bene. Noi quest'anno abbiamo contattato circa 800.000 persone, distribuendo a tutti una guida pratica, dei Deplian che riassumono le truffe più evidenti, però stiamo vedendo che quello che ci eravamo prefissi, di fare vicinato intorno a questa cosa, cioè di tornare ad essere rete sta funzionando. Attiva, sta funzionando. Sì, perché la persona lasciata a se stessa con il truffatore, lo dico, ci sono passate due persone. Sì, lei ha detto una... È difficile, io non ho fatto 10 trasmissioni sullo specchietto, una volta che mi ferma il ragazzo col motorino, gli ho dato anche spago, ci ho parlato 10 minuti, beh, poi ho detto ma che sono scemo, però era talmente disarmante, non ci ho pensato, ti sovrappongono. Lei comunque ha detto una verità che va sottolineata, se chiunque noti qualcosa di anomalo è preferibile che chiami il 113, il 112 e il 117. Arrivano velocemente, il più delle volte sono truffatori, se ne vanno e non tornano più. Se sanno che qualcuno chiama la polizia, in quel palazzo non vengono più, lo posso dire con testimonianza. Vediamo un po' le novità però, ci sono qualcosa di nuovo e di fresco che ancora non abbiamo detto o abbiamo trattato? Ma guardi, di nuovo di fresco sta questa del condominio, è stata denunciata anche a noi. Ah, quindi comincia a girare questa cosa? Comincia a girare anche questa cosa. C'era una falsa truffa, io credo che è girata dai canali di Facebook, dai nuovi canali, quella del POS. Che... E l'abbiamo già smontata, state tranquilli. Sì, non esiste, però comunque questo tipo di allarme fa sempre bene tenerlo, come si dice, alto e mai spento. È sempre forte, diciamo, l'idea delle bollette, delle noi, utenze. Guardi, devo dire, abbiamo avuto anche occasione in molti territori di vedere quanto le persone ci tengano a capire come non essere truffati, perché poi al di là del danno economico e più delle volte per l'anziano è un danno psicologico, l'essere truffato fa sentire l'anziano ancora più solo, perché lo mette nella condizione di non essere più buono per sé e per gli altri, però molti degli anziani invece l'hanno presa con molta filosofia. Noi abbiamo due gruppi che hanno inscenato commedie in dialetto per spiegare agli altri anziani come non cadere nelle truffe. Ah, quindi avete fatto proprio una sorta di psicodramma. Questo mi sembra. Sì. Senta un attimo, ci sono delle persone che ci stanno chiamando, se c'è qualche suggerimento da dare. Emanuele, buongiorno. Buongiorno a lei, ragazzi. Sì, radioascoltatori. Senta, io ultimamente sono stato oggetto di una tentata truffa telefonica, tipo quelle di cui state parlando. Mi avevano detto che mio figlio aveva avuto un incidente, vi dicendo. Era convincente, diciamo, la persona? La persona, volendo, credibile. Con un po' di credulità era convincente. Però lei aveva ascoltato Melo, che sapeva che era una truffa. Bravo, bravo. Sì, sono stato abbastanza, tra virgolette, sveglio. Però volevo raccontare un episodio di diversi anni fa che esce un po' da questo tipo di truffe. E io viaggiavo spesso in auto e mi fermavo sempre ai soliti autogrill per l'autostrada. Mm. Ce n'era uno dove c'era un gruppo di zingari capeggiato da una matrona molto rappresentativa e si offrivano sempre di leggere la mano per fare cose del genere, vi dicendo. Un giorno ho detto, ma voglio vedere come riesce a fregarmi questa qua. E mi sono, cioè, si è avvicinata a lei, ti leggo la mano, va bene, leggimi la mano. Cioè, piglia una carta, una banconota, no? E io ho preso una banconota, all'epoca c'erano ancora lì, una banconota da 5.000 euro. Sei che vado a buttarla via. E poi? E infatti, no? Ma sono andato oltre, diciamo, nella mia sprovvedutezza. Alla fine com'è finita? Mi dice, no, una carta più grossa, perché se no non riesce bene. Certo, 50.000. Io pensavo che lei me la sfilasse in un qualche modo. Invece? Invece questa, io tiro fuori la carta da 50.000, sempre cercando di avere tutte le antenne attive, gliela do. Bravo. Questa la cortuccia in mezzo alle mani, poi ci fa, mi scusatemi anche per l'ora, ci fa una sputazza di quella. Ah, gliela sì. E a quel punto lei continuava nella sua pantomima, gli ho detto no, dice guarda, me l'hai spiegata, va bene così, non ci penso più. Vabbè, se l'hai cercata, lo sputazzo sulla banconota, è chiaro, con lo scatarro della zingara nessuno se la rimette in tasca, e lei se la in tasca e poi le rimette in circolo, comunque lo scatarro ci contaminerà prima o poi in qualche maniera. Valentino, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Sì. Senta, io faccio riferimento sempre alla stessa truffa del signore precedente, solamente che mia madre, che ha 92 anni, non sentiva Melog, quindi ha avuto una truffa simile a quella del signore, gli hanno tolto 250 euro col fatto che io avevo avuto un incidente, è arrivata l'assicurazione, questo e quell'altro. In questo momento lei le mani non le sta tenendo, chiaramente è logico, invece lei ha avuto, e poverina, mi dispiace tanto. Sentiamo Luca, solito truffo l'anziano, sono tranchant perché stiamo per chiudere. Luca, velocemente. Velocemente, io sono un cliente post e mi sono iscritto a un'ulteriore funzione che era quella di poter effettuare l'operazione online, si chiama Banco Post e Click. Il giorno dopo che ho fatto questa operazione mi arriva un'email truffa, a cui io rispondo ingenuamente perché non sono pratico di queste cose. Mi hanno rubato dal conto corrente 2.500 euro e ho fatto tutte le denunce del caso e dopo 3 anni li ho riavuti completamente tutti quanti. Sì, quindi... è un caso di phishing, è drammatico capire com'è il giorno dopo già sapessero che lei aveva aperto un conto. Evidentemente era monitorata la sua mail in qualche maniera e hanno visto qualche operazione. Comunque gli hanno restituito i soldi, quindi da questo punto di vista può dirsi contento. Fabio Menicaccio, rispetto a queste ultime due truffe, una battuta soltanto, sono di livello alto rispetto al target dei suoi assistiti? Sono purtroppo di livello quotidiano. Guardi, noi abbiamo aperto una rubrica sul nostro giornale che va in giro per l'Italia, sono 200.000 copie, d'accordo con le forze dell'ordine, e segnaliamo le nuove truffe. Ora c'è un'abitudine, molto probabilmente perché i malviventi sono preparati, vengono contattate delle persone anziane che hanno subito dei furti e gli viene proposta di sottoscrivere una polizza assicurativa e a seguito di questa sottoscrizione gli rimborsano il furto subito. Beh, c'è del genio. Prima lo derubano e poi gli rubano ancora la polizza per assicurare. Beh, è una sorta di pizzo all'inverso, capito? Esattamente. Per cui, giustamente succedono tantissime cose. Io sì, perché hanno i documenti, evidentemente dopo l'hanno borseggiato i documenti. Al di là delle truffe online che diventano sempre più sofisticate, per cui noi diciamo agli anziani o alle persone che contattiamo di utilizzare pochissimo gli acquisti online, se non lasciate con postpay e con una carta ricaricabile, per cui se succede qualcosa il danno se non è avete minimo. Tanta manualità, fatelo fare ai nipoti. Il danno è minimo. Almeno il furto rimane in famiglia. Grazie a tutti, alla prossima.